Difficile capire se la controffensiva culturale riuscirà a stoppare o ridimensionare la mania per la cucina etnica in Iran, perché ovviamente queste cose sono un po' ridicole. Poi la gente, racconta la stampa, cerca la pizza, la mozzarella, il mascarpone, il camembert, un po' ovunque, ma le autorità religiose, in questo caso no, le autorità dell'emittente statale IRIB, hanno detto basta programmi che fanno vedere trasmissioni in cui si parla di cibo. Com'è? Che rischia con le sue mollezze decadenti della società occidentale di corromperci. Bando alla pizza. Vabbè, anche questo succede. Ci dobbiamo fermare con la rassegna stampa. Votate il sondaggio su radio24.it. Parliamo della tragedia con i 4 rom bruciati vivi, bambini, 2 giorni fa. Ora ci fermiamo per il GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Voglio salutare l'onorevole Enrico Costa, che è capogruppo del PDL alla Commissione Giustizia alla Camera. Onorevole Costa, buongiorno. Buongiorno a lei, per ascoltatori. Senta, le chiedo questo: è stato rilanciato per sua iniziativa, una richiesta dal presidente della Commissione Giulia Bongiorno, il processo breve che era stato approvato al Senato, cioè quel provvedimento che, lo dico brevemente, fa estinguere i processi troppo lunghi. Ci dica subito perché l'accusa che è stata fatta in passato è stata questa: in nome di cercare di salvare anche i procedimenti che coinvolgono il presidente del Consiglio, si fa questo provvedimento. Lei come risponde a questa accusa? Ma io rispondo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pagare all'Italia nel 2007 14,7 milioni di euro, nel 2008 25 milioni di euro, nel 2009 30 milioni di euro per sanzioni per la lunghezza dei procedimenti penali. Noi avevamo procedimenti di equa riparazione, quindi di risarcimento per cittadini che erano stati lesi nei loro diritti dalla lunghezza dei processi penali, 5.000 casi nel 2003, siamo arrivati nel 2009 a 34.000 casi. Abbiamo in Italia 4 milioni di fascicoli penali pendenti, nel senso che sono un arretrato giudiziario insostenibile a cui si aggiungono quelli quotidiani. Ebbene, se questo è voler favorire, fare un provvedimento per favorire Berlusconi e non per sostanza agire per sradicare questo fenomeno di arretrato giudiziario, me lo dico coloro che ascoltano. Però le accuse, per esempio, leggo che anche il vicepresidente del CSM Vietti ha detto è un provvedimento devastante, cioè cancellare con un colpo di penna tutti i procedimenti in corso, per molti è una soluzione, non è la soluzione giusta, cioè meglio eliminare le cause dei procedimenti lunghi, ma non cancellare quelli in corso. Allora, innanzitutto non è così, perché il testo che è stato approvato al Senato, che sicuramente è migliorabile, aspettiamo dall'opposizione delle proposte migliorative e non sicuramente della demagogia. Il testo prevede che i procedimenti penali debbano avere una durata massima di 6 anni e mezzo per alcuni procedimenti, quelli minori, di 7 anni e mezzo per quelli un po' più gravi, di massimo 10 anni per quelli ancora più gravi. Ebbene, io penso che avere un processo penale che duri 6 anni e mezzo sia un termine più che sufficiente, sicuramente non un termine che porta all'estinzione, ma un termine che consente alla giustizia di essere resa in termini ragionevoli. Senta, ma in questo contesto politico, anche con le inchieste, le richieste della Procura di Milano che arriveranno nei confronti del Presidente del Consiglio, secondo lei non è un po' pretestuoso lanciare proprio adesso il processo breve? Qualcuno lo legge così, ecco. Ma no, non c'entra nulla, questo è un provvedimento che è stato già approvato al Senato, che è da un anno alla Camera. La Commissione ha fatto tantissime audizioni, ha ascoltato professori universitari, ha ascoltato i magistrati, ha ascoltato i rappresentanti dell'avvocatura, è disponibile ad accogliere delle proposte migliorative, ma teniamo conto che quelli che oggi stridono contro questo provvedimento, faccio un esempio, il Partito Democratico aveva presentato un identico provvedimento al Senato nella scorsa legislatura, che il Futuro e Libertà, che oggi strilla contro questo provvedimento, a tutti i suoi senatori che lo avevano votato nel mese di gennaio dell'anno scorso. Ebbene, qua bisogna cercare di evitare di fare della demagogia soltanto per ragionare soltanto per sintesi e per slogan e fare delle proposte migliorative. La maggioranza è disponibile a recepirle. C'è un problema sulla norma transitoria. Ebbene, la si discute. Vogliamo dire la norma transitoria, cioè è la retroattività? Cioè vale a dire che sia retroattiva questa norma? Benissimo. Si può cercare di migliorare questa norma, di cercare di diminuirne la portata, Io penso che una norma processuale penale normalmente deve essere applicata immediatamente, ma c'è un problema, perché non la si vuole applicare ai processi di Berlusconi, perché questo è il problema. Sì. C'è una norma che dovrebbe essere generalmente applicata a tutti i processi, vogliono farne l'opposizione una norma che non si applica a certi processi. Ragioniamo anche su questo, tanto per dimostrare che non c'è sicuramente una finalità di questo genere, ma il nostro obiettivo è quello di evitare che cresca ancora l'arretrato giudiziario. Un'ultima domanda le chiedo: secondo lei Berlusconi è perseguitato dai magistrati? Ma io, guardi, non voglio usare questo termine sicuramente. Io quello che posso dire è che nel 1994 entrò in politica, dopo pochi mesi venne raggiunto da un avviso di garanzia, cadde il governo e il procedimento penale che si radicò per effetto di quel avviso di garanzia venne poi archiviato. Beh, al governo c'è qualcuno che riscrive dicendo al governo cadde perché la Lega fece mancare la maggioranza. Diciamo, la Lega fece mancare la maggioranza perché si creò una instabilità fortissima proprio per effetto di quell'avviso di garanzia. Ebbene, l'avventura politica di Berlusconi cominciò con quel segnale. Sono passati 16 anni, l'opposizione non è stata capace di fare nulla per vincere con i mezzi propri e si affida alla soluzione giudiziaria. Ebbene, noi pensiamo che bisogna ritornare alla politica con la P maiuscola, fatta di argomenti, fatta di soluzioni, fatta di tesi, fatta di riflessioni, fatta di ragionamenti e non fatta di demagogia e di tentativi di spallate giudiziarie. Io la ringrazio, buona giornata ovviamente all'onorevole Enrico Costa del PDL. Grazie. Anche ci ha detto sulla norma, sulla retroattività, come ci segnalano molti ascoltatori, quindi ci siamo pronti a discutere, perché molti dicono questo è il punto chiave, se basterebbe togliere la retroattività al procedimento è tutto a posto, però insomma su questo si discute. Certo, il rilancio del processo breve, ricordiamo, approvato al Senato circa 6 mesi fa e fermo alla Camera da allora. Ci fermiamo, continua la discussione tanto su Facebook con 24 Mattino e noi ripartiamo dal sondaggio con la vicenda, la tragedia nel campo abusivo dei nomadi, con la tragedia di 4 bambini rom morti e il sindaco Alemanno che dice ora ci vogliono poteri speciali, chiederò a gran voce urlando al governo. Questo è il tema del nostro sondaggio: secondo voi servono poteri speciali per risolvere la situazione dei rom nelle grandi città italiane? Ne parliamo e votate il sondaggio su radio24.it se volete intervenire. 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qui a parlare della tragedia avvenuta in questo campo abusivo 2 giorni fa di Roma, con 4 bambini morti nel rogo. Avevano tra i 4 e gli 11 anni, 4 fratelli. Era successo anche a Milano nel 95, anche lì 4 bambini morti tra i 7 mesi e i 4 anni. Era successo nel 2007 a Livorno. E ci si interroga in tutti questi casi. C'è anche moltissima ipocrisia, diciamolo chiaramente, nel dibattito pubblico sui giornali, ma di questo ci interroghiamo, della richiesta del sindaco Alemanno di poteri speciali invocati per affrontare questa emergenza nel tema del nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Alemanno invoca poteri speciali, siete d'accordo, per affrontare il tema, l'emergenza rom? C'è da dire che per ora il 61% di voi dice di no su radio24.it nel nostro sondaggio. Vogliamo sentirlo il sindaco ieri, che cosa chiederà urlando al governo. Io scriverò al governo chiedendo di affidare al prefetto poteri realmente speciali per attuare immediatamente il piano nomadi. Non possiamo fare i campi autorizzati aspettando tutti gli impedimenti burocratici, tutte le autorizzazioni che ci hanno vincolato per mesi e mesi. A 6 km di qua c'era un campo che deve essere pronto già da 6 mesi, se non ci fossero stati i ricorsi al TAR, se non ci fossero state le sovrintendenze, se non ci fossero stati 3.000 blocchi. Abbiamo 3 aree, possiamo subito costruire 3 campi nuovi e cancellare tutti gli insediamenti abusivi, e non lo facciamo solo perché ci sono blocchi burocratici. Lo chiederò urlando al governo. Allora, se la prende con la burocrazia, anche oggi in un'intervista a Libero, la burocrazia ce l'ha il sindaco Alemanno. Allora di questo vogliamo parlare con 2 ospiti che saluto. Giorgio Ciardi, delegato al Comune di Roma per la sicurezza, consigliere comunale. Ciardi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Così come voglio salutare Susi Fantino, che è presidente della nona municipalità Roma, zona Appia, e del partito di Vendola, questo è giusto? Presidente, sì, è giusto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Benvenuta. Senta, Ciardi, intanto io di ipocrisia un po' ne ho vista, devo dire, un po' spalmata qua e là anche nel dibattito pubblico. Glielo dico francamente, non è anche un po' ipocrisia tirare in ballo la burocrazia per affrontare questo tema, Ciardi? Ma chi è all'interno della pubblica amministrazione con diverse responsabilità e a diversi livelli sa che la battaglia quotidiana è proprio quella di superare i lacci e lacciuoli della burocrazia. Rispetto al piano Nomadi, che è ovviamente un piano emergenziale, ci rendiamo tutti conto che con i poteri conferiti dal governo al prefetto non ci sono le condizioni per poter seguire un iter veloce per la costruzione di questi campi. L'episodio della Barbuta è quello più emblematico. Siamo stati fermi un anno e tre mesi per una serie di, tra virgolette, vicissitudini burocratiche. La Barbuta era un campo che dista 6 km da dove è successa la tragedia dell'altra sera. Probabilmente quella famiglia sarebbe stata ospitata in quel campo attrezzato, avremmo evitato quella tragedia. Quindi lei dice la burocrazia in realtà c'entra. Per esempio c'è il comune di Ciampino, credo il sindaco se la sia presa col comune di Ciampino. Perché? Perché lì dovrebbe sorgere un campo e il comune ha fatto ricorso al TAR? Il comune di Ciampino ha fatto ricorso al TAR per la solita logica che i campi vanno bene ma lontani da casa propria, e ovviamente non è un atteggiamento politico e amministrativo maturo. Senta, invece volevo chiedere a Susi Fantino, lei credo se la sia presa anche col sindaco Alemanno, che di rimando si è anche arrabbiato dicendo non si specula sui morti, soprattutto su 4 bambini morti, quando è arrivato al campo, quando effettivamente era successo da poche ore questa tragedia. E lei perché se l'è presa col sindaco? Beh, innanzitutto perché noi avevamo da sempre, insomma, segnalato quella zona lì, perché ricordo che era una zona che era già stata interessata anni fa da un grosso insediamento che poi fu coinvolto anche per questioni di pedofilia e dunque stava sotto la nostra lente di attenzione, e l'avevamo segnalato soprattutto per il degrado, soprattutto per la mancanza d'acqua, soprattutto per le condizioni igieniche che erano veramente inaccettabili. È stato segnalato più volte da noi, dai vigili urbani e dai cittadini stessi. Si poteva intervenire perché era una micro realtà, dunque comunque sia ricollocare quelle famiglie era facile, era più semplice che trattare il tema dei grandi campi. E poi vorrei anche dire che se continuiamo a pensare alla situazione delle comunità rom come una situazione di emergenza e non come un dato, perché ripeto, non sono nomadi, cioè la percentuale più alta presente a Roma non è più da anni da considerare nomadi, sono stanziali, sono cittadini europei, sono cittadini, molti di loro italiani, sono i cittadini romani. Allora fa parte delle problematiche sociali che ha questa città e come tale vanno trattati. Quindi, cioè, in cosa vede l'ipocrisia? Perché guardi che qualcuno ha detto, è anche ipocrita l'attacco, a dire, vale dire le critiche subito, diciamolo francamente, con la tragedia che era appena avvenuta, e quindi volerla strumentalizzare. Per esempio oggi il Manifesto fa questo titolo in prima pagina: Mamma Roma, mette una bella foto di queste due gerbere che qualcuno ha attaccato al recinto di questo campo, e dice c'è troppa strumentalizzazione, l'ipocrisia della politica. A fianco c'è l'editoriale Alemanno vattene, cioè voglio dire, non è anche questa una strumentalizzazione, cioè un usare una tragedia di questo genere per fini politici? Allora, intanto non è purtroppo una tragedia isolata, no? Ne abbiamo un elenco, è stato citato già da tutti i giornali, di tragedie che sempre hanno colpito, guarda caso, nella stragrande maggioranza bambini o donne. Allora io credo che la rabbia che ha preso tutti noi, e credo di aver rappresentato la rabbia dei residenti, delle persone che stavano lì l'altra sera, era proprio quella della sensazione che si poteva evitare quella tragedia. Dunque non credo affatto che sia una strumentalizzazione, e penso anzi che la strumentalizzazione, se vogliamo, è arrivata proprio purtroppo dal sindaco, in quanto ha tirato in ballo i cavilli e i lacciuoli. Io ricordo a tutti che, visto che era stata già da sempre trattata trattata come emergenza la questione Rom, il sindaco ha già poteri sufficienti, è uno dei sindaci che ha più poteri speciali, credo, d'Italia. Il problema non sono i poteri speciali, il problema è la volontà seria di ritornare a riprendere le fila della solidarietà e dell'idea di civiltà. Allora pensare che si possano spostare famiglie da un lato all'altro, perché ripeto, la cultura dello sgomberare è semplicemente quella di dare un contentino ai cittadini, che spesso anche ha ragione di fronte a quella situazione di degrado assolutamente lasciata a se stessa, reagiscono anche loro male. Allora io vorrei dire, prima di tornare da Ciardi, qualche ascoltatore anche ci stanno chiamando già in molte, 800 24 00 24, vorrei dire qualcosa di scomodo, ma lo cito qua e là, una cosa è mia, una cosa è citata, perché così magari togliamo un po' quel velo di ipocrisia che c'è anche nel dibattito sui giornali, intendo. Per esempio dire, e ci sono molti, mandiamoli via tutti, no? Mandiamoli via tutti, spesso anche i politici, farò così e se verrò eletto manderò via tutti. Poi si scopre che la maggior parte dei Rom sono italiani di cittadinanza. Molti sono anche cittadini europei e quindi con la questione comunitaria, però in alcuni casi possono essere allontanati, in altri casi no. Oppure, cito il prefetto, l'ex prefetto Achille Serra, oggi dell'UDC, affidiamo i bambini lasciati dei Rom, gli togliamo l'affido ai genitori? È impossibile, vogliono sempre tornare da loro, preferiscono stare coi genitori, ed è comprensibile per ogni bambino, anche in mezzo ai topi. Oppure oggi Paolo Granzotto sul giornale, tutti che piangono i bambini Rom, ma vogliamo dire per esempio che quei genitori li hanno lasciati lì? 4 bambini dai 3 anni agli 11 anni, 3 anni, li hanno lasciati lì per andare, non lo so dove dovevano andare, però li hanno lasciati lì. E infatti la procura li indaga anche per abbandono di minori. Giorgio Ciardi, sono troppo politically incorrect, come si direbbe, non so, in America, Ciardi? Ovviamente la dialettica va bene, la speculazione non aiuta nessuno, soprattutto chi sa in un ambito amministrativo come un comune, un municipio, sa bene che poi alla fine si deve confrontare con quelle che sono le problematiche reali, quindi non c'è neanche troppo tempo da dedicare a questo tipo di speculazione. Quello che dico io e che ha detto giustamente il sindaco Alemanno e il prefetto di Roma ieri è questa: abbiamo una situazione che è emergenziale, è un problema sociale, è un problema sociale della città e non soltanto della città, anche se i sindaci in qualche modo sono stati lasciati da soli, tanto dall'Unione Europea, qui parliamo soprattutto di popolazioni Rom comunitarie, e spesso e volentieri anche dai governi nazionali. La richiesta fatta dall'Alemanno in modo paventorio e netto è proprio questa: più risorse e più poteri, non al sindaco, al prefetto. Ma perché servono più poteri? Perché servono più risorse? Potere e la risorsa scioglie la burocrazia? No, se il problema fosse la burocrazia. Assolutamente, il potere speciale serve a saltare tutta una serie di procedure che abbiamo posto in essere per la realizzazione, per esempio, dei campi d'accoglienza, per cui un qualcosa che si poteva realizzare in 6 mesi in realtà si realizza in 1 anno e mezzo, 2. Saltare la burocrazia. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi Luigi da Roma, Carla da Bari, sono lì gli ascoltatori, riparto da loro tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E allora, per il momento, sempre il sondaggio dice: il 62% degli ascoltatori dice no, non servono i poteri speciali invocati dal sindaco Alemanno, che però ha detto li urlerò a gran voce, poteri speciali e più fondi da parte del governo al prefetto di Roma, che è colui che gestisce l'emergenza Rom. Voglio sentire qualche ascoltatore. Luigi da Roma, proprio da Roma. Buongiorno Luigi. Complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda ai signori politici. Sì. La parola accoglienza che significa? L'accoglienza necessariamente legata a un discorso di provvisorietà. Ora noi abbiamo il grande problema unico dei Rom rumeni, è inutile che la giriamo intorno. Si sono aperte le frontiere e vengono tutti qui. Cosa fa la Germania? Lei se l'è mai chiesto, che è un giornalista, perché non va in Germania a intervistare il governo tedesco? E che fanno in Germania? Di numeri, caro Alessandro Milan, di numeri noi a Roma possiamo accogliere provvisoriamente X numeri, oltre quelli basta. E che però che può fare con, non so, un Rom di nazionalità rumena e che quindi è comunitario e che non mettiamo il caso non delinque, quindi vuole stare in Italia. E lo so che è un problema, insomma. C'è una legge europea del 2004 la quale dice che lei, caro Alessandro Mila, se vuole andare in Germania, lei come italiano, e ci sta più di 3 mesi, il governo tedesco le bussa alla porta e gli dice: come ti mantieni? Sì, ha una casa e lavora. Che è stata utilizzata. Non lo sa, ma questa è l'ignoranza. Va bene, siamo ignoranti. Sono il grande ignorante, caro Luigi, ma guardi che il ministro Maroni si batte proprio su questo, per fare applicare in Italia questa direttiva europea che prevede per anche i comunitari di dimostrare reddito, come ci si mantiene, se si ha una casa decente. Ha visto, Luigi, sono un po' meno ignorante, va bene? Così? Ma caro Alessandro, però le regole ci sono. Le regole ci sono, però vi meravigliate sempre degli italiani. No, non ma che mai cosa fanno i tedeschi? No, ma noi ce lo chiediamo. Insomma, vede, mi ha fatto anche un esamino, dai, 5,5 l'ho preso. La ringrazio, Luigi da Roma. Voglio andare a Bari, da Carla, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti per la trasmissione. Volevo appunto fare un mio piccolo intervento e proprio sottolineare effettivamente la grande ipocrisia che viene usata ogni qualvolta che accade una tragedia del genere, che a mio avviso si può evitare, lungamente evitare, la prevenzione non esiste. Io le porto la mia brevissima esperienza, sono un assistente sociale, ho lavorato presso il comune di Trento. Perché a Trento c'è un campo nomadi, ci sono dei campi nomadi perfettamente monitorati, perfettamente controllati dai servizi sociali? Perché queste tragedie non accadono in altre regioni d'Italia? Allora sarebbe necessario, basterebbe pochissimo, apprendere e considerare le buone prassi di altre regioni. Forse però, Carla, è anche una questione di numeri, no? Effettivamente a Roma è una grande città, ci sono molti più insediamenti, è anche anche dal punto di vista del clima, una città che attrae molte più persone che vogliono vivere magari in accampamenti anche purtroppo abusivi. Certamente, però un minimo di controllo, credo, anzi un controllo maggiore, i servizi sociali dovrebbero proprio monitorare maggiormente queste situazioni, queste realtà, insomma, e comunque seguire maggiormente i bambini. Va bene, grazie Carla. Io voglio andare a Milano da Luca, poi torno ai nostri ospiti. Luca, buongiorno. Buongiorno Milan e ai suoi ospiti. No, io volevo dire soltanto una cosa. Sinceramente parto col presupposto che mi dispiace per questi 4 bambini, che fondamentalmente loro non ne hanno nessuna colpa, ma la responsabilità è sono dei genitori veramente degeneri per lasciare i bimbi in quelle condizioni. Cioè, le dice, quindi fa bene la procura di Roma a indagarli per abbandono sì. di minori. Assolutamente sì, perché in Italia se io abbandono mia figlia o commette un qualcosa, io ne sono legalmente responsabile, quindi questo è, dal mio punto di vista, è così. E poi mi scusi se io sono, scuso con i suoi ospiti, sono molto concreto o conciso. Il fatto è questo, che parliamoci chiaro, i Rom sono fondamentalmente un problema, i quali vengono utilizzati a livello mediatico quando serve e quando non servono vengono lasciati alla mercere. Poi parliamoci chiaro, perché prendere dei nomadi che vivono rubando? Perché io non ho ancora visto un Rom, ho sentito di un Rom che lavora onestamente, porta a casa lo stipendio e paga. Beh, adesso io non lo so, però certo c'è un problema legato alla criminalità, adesso non so, non credo che, anzi sicuramente ne esistono che vivono onestamente. Però Luca, qua, concretamente, quindi uno che ruba, lei che fa? Lo arresta e cerca di processarlo? No, non... Allora, se una persona non si attiene alle regole, alle leggi del paese, scusate, prendere e mandare fuori. Ma se sono, se sono italiani, che gli fa? Se sono italiani come lei, che gli fa a un Rom italiano? Allora, a un Rom italiano, se lo becchi a rubare, lo prendi e lo metti in galera. Vabbè, certo, questo è l'unico modo. Perché se io rubo, se io rubo, mi mettono in galera. Però io, Milan, mi scusi, ho bisogno di una casa in questo momento. A me non viene nessuno a dirmi ti do una casa perché hai bisogno. Perché Rom gliela si dà gratis e che c'è gente che non sa come sbarcare lunario in Italia? Va bene, grazie Luca. Questa è la domanda la giro a Susi Fantino. La questione delle dimore dignitose. Guardi che molti italiani, soprattutto in questo momento di crisi, dicono ma come? Cioè dobbiamo occuparci di dimore dignitose per i Rom, giusto per parlare fuori dall'ipocrisia? Sì, allora proprio per parlare fuori dall'ipocrisia vorrei ricordare, io sono italiana di origine, i miei genitori sono immigrati negli anni in cui si andava fuori dall'Italia perché in Italia c'era difficoltà a riprendere dopo la guerra. Allora, l'Italia è un paese di immigrazione, l'Italia è un paese che a causa della miseria, ovviamente non solo la miseria, ha visto tantissimi dei suoi figli e delle sue famiglie dover emigrare. Io questo lo ricordo sempre perché è importante la memoria che un popolo ha bisogno di mantenere per poter immaginare anche un futuro. Questo lo dico perché gran parte delle persone che sono a Roma oggi, che noi chiamiamo Rom, in questo caso non erano Rom, erano rumeni tra l'altro, e sono cittadini aventi diritti come tutti quanti. Dopodiché fare l'equazione Rom, criminalità, Rom che rubano, secondo me va anche... L'equazione no, però insomma adesso... Beh, insomma va anche ridimensionato dire... perché gran parte a Roma della manovalanza edile viene anche dai rumeni, viene anche spesso da famiglie che hanno origini Rom. Allora tutto questo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che siamo una società complessa, siamo una società che ha diverse situazioni, c'è una crisi, molte persone che fino a ieri credevano di farcela oggi si sono scoperte povere, la povertà non può essere criminalizzata, un'amministrazione che ha il senso della diciamo dell'inclusione della collettività deve assumersi la responsabilità di risolvere i problemi, non possiamo continuare a pensare che l'immondizia è un problema di emergenza perché in realtà la verità è che non c'è alcuna pianificazione vera. Non possiamo pensare che succede quello che succede all'Aquila perché semplicemente c'è stato un terremoto, no, è successo perché c'è tutto un pregresso di disattenzione, di speculazione. Ecco, allora io credo che l'emergenza che accompagna un'amministrazione, un governo, sta a significare solo la mancanza di capacità di pianificare e di amministrare. Insomma, lei dice l'incapacità di amministrare questa situazione. Io mi scuso con Elena da Salerno, non sono riuscito a farla intervenire, ma la recuperiamo. Magari invito anche lei ad andare su Facebook 24 Mattino, ci trova dove la discussione continua, dove ci siamo noi, dove facciamo dibattiti, eccetera. Però mi devo fermare ringraziando Giorgio Ciardi, delegato del Comune di Roma per la sicurezza, consigliere comunale, e Susi Fantino, presidente della nona municipalità a Roma di Sinistra Ecologia e Libertà, il partito di Vendola. Ci fermiamo qui con Peter Bescapè, l'alpino. Dov'eri ieri? Non si sa, è ritornato con la sua penna. Dormivo, come l'alpino che dorme, è una cosa che non si può neanche sentire. Antonella Migliaccio in redazione con Elisabetta Fusconi, che dire, ci ritroviamo domattina alle 7:20, la linea passa a Oscar Giannino.